got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 che parla di identità attraverso la storia di italiani che hanno in qualche maniera radici altrove. Questa sera il nostro ospite è l'unico italiano che ha combattuto nella brigata anti-ISIS nella terra curda e stiamo parlando di Karima Franceschi. Buonasera. Buonasera. Lei ha appena pubblicato questo libro che racconta la sua storia, la storia di un italiano, l'unico appunto che ha difeso Kobane dal califfato, Il Combattente, un libro uscito per Burda pochissimo. Innanzitutto, Karim, dove si trova adesso? Adesso sono qui in Italia, sono tornato ormai da una settimana. Nel libro il racconto dell'assedio di Kobane, la battaglia di Kobane. Ho avuto l'onore di essere lì quando l'ISIS ha subito la sua più grande sconfitta fino ad oggi. E non solo di essere lì, ma di aver partecipato proprio a questa resistenza, no? Sì, originariamente ero andato per portare aiuti umanitari. Sono un attivista politico da quando ho 19 anni, che milito nei centri sociali. Ero andato nei campi profughi con dei medicinali per sentire, anche per capire cosa stava succedendo, e ho avuto questo incontro con dei bambini soldato e tanti altri profughi che raccontavano di questa resistenza eroica. Kobane era per tre quarti catturata dall'ISIS e stavano tentando di conquistare il resto della città, dove i civili erano intrappolati, dove queste donne partigiane e partigiani resistevano. Dai racconti di questi profughi in qualche maniera ho rivisto le immagini dei partigiani che anche da noi resistevano nelle montagne durante la guerra e combattevano questo male che era il fascismo, e adesso in qualche maniera si è trasformato in qualcos'altro oggi, questo fascismo nel Medio Oriente, l'ISIS fondamentalmente. E dalla distribuzione di farmaci e aiuti come è passato a imbracciare un'arma? Distribuivo farmaci quando ero andato lì a ottobre del 2014. L'assedio era iniziato agli inizi di ottobre. Distribuivo medicina, parlavo con i bambini soldati quando la città stava per crollare. Tutti chiedevano aiuto, chiedevano a uomini e donne di andare e sostenere questi resistenti. Insomma, ho sentito che dovevo fare di più, e per me distribuire medicinali, anche se era una cosa importante, non era abbastanza. Dovevo fare qualcosa di più, dovevo fare quello che in qualche maniera mio padre e tantissimi altri partigiani e partigiane hanno fatto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dalle belle città da te nemico. Fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna. Lei è figlio di una donna marocchina, di un uomo italiano, no? Giusto. Mio padre combatté nei SAP a Signa e partecipò a tutti i due anni di resistenza. I racconti che mi fece quando ero ancora bambino nel Marocco in qualche maniera ebbero un grande effetto su di me. Piantarono un seme di libertà e democrazia. E mio padre era molto patriottico e nonostante fossimo fossi stato in Marocco fino a 7-8 anni. Sono cresciuto con un enorme senso di patria, della mia patria italiana, che per me è rappresentata dai valori della Costituzione italiana. E sono quei valori che, quando mi sono ritrovato a varcare quel confine e attraversare il filo spinato del confine della Turchia, che impediva a chiunque di andare a sostenere questi resistenti, sono questi valori della nostra Costituzione che mi sono portato dietro. Mi sono sentito parte, proprio perché ho rivisto i valori della nostra Costituzione nei valori per cui combattevano questi partigiani a Kobane, per cui resistevano, e sono valori di democrazia, di libertà, sono valori di eguaglianza, secolarismo. E questo è anche il motivo per cui l'ISIS aveva deciso di distruggere Kobane. Kobane era un simbolo di libertà che l'ISIS non poteva accettare, e questi resistenti combattevano inferiori numericamente di 1 a 10, armati con armi obsolete contro carri armati. Insomma, è questa voce che l'ha richiamata. Lei sì. Parla in effetti nel libro di suo padre primo, delle due sorelle, no? della storia intricata della sua famiglia, attraverso la quale passano molte culture, perché lei per metà è marocchino, quindi c'è anche questa componente, no? Sulla carta non ho la cittadinanza marocchina, ma sì, mia madre è marocchina. E poi ha vissuto molto in Marocco. Ho passato il primo periodo della mia infanzia in Marocco, certo, però io mi sento internazionalista, io sono comunista, e per me non sono limitato dai confini geografici. Anche il fatto di pronunciarmi italiano per me non significa rimanere nei confini, ma significa portare i valori della nostra Costituzione ovunque io vada. La giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i Ho attraversato illegalmente il confine turco. Kobane è sul confine turco, cosa che tra l'altro ha permesso all'ISIS di circondarla su tre parti, e il confine turco fu chiuso, quindi in qualche maniera questi curdi e curde rimasero in trappola. Questi uomini e donne erano intrappolati e in qualche maniera decisi di andare, di attraversare nella notte questo filo spinato, di notte attraversare illegalmente il confine controllato da gendarmeria armata turca, anche con il rischio di finire in mano all'ISIS, perché ricordo che l'ISIS aveva tre quarti della città in mano, quindi era molto facile finire nel punto sbagliato. Lei aveva mai sparato, aveva mai usato un'arma prima? Solo nella PlayStation e nei videogiochi. L'addestramento in realtà consisteva in 4 giorni in una piccola stradina, poiché nel resto della città vi erano combattimenti continui, e in questa piccola stradina cadevano mortai, il che rendeva l'addestramento molto realistico, devo dire. Addestramenti normali durano 6 mesi, eppure la situazione era così disperata, servivano così tanti combattenti sul fronte, anche perché molti cadevano e venivano feriti gravemente, quindi servivano continui ricambi. L'addestramento, in realtà, quello che feci io doveva durare 7 giorni, e al quarto giorno fu interrotto, poiché dovevo andare a sostituire un compagno rimasto ferito sul fronte. E quindi è andato. Quanti mesi è rimasto a combattere? rimasi a combattere per 3 mesi, partecipai alla liberazione della città, della città di Kobane, la parte urbana, poi partecipai a tutta l'avanzata fino alla liberazione di tutta la campagna fino all'Eufrate, e vidi l'Eufrate per la prima volta nella mia vita. Come comunicava con queste persone? All'inizio fu molto difficile, poiché vi era un curdo nella mia squadra che capiva leggermente l'inglese, ma poi fui separato da questo curdo e dovetti imparare il curdo. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? A Radio 24 lo speciale scuola. Quale scelta per i nostri figli? I consigli di insegnanti, presidi e pedagogisti per capire come orientarsi fra licei e tecnici e come valutare le scuole più vicine a casa vostra. Sono Maria Piera Ceci, vi aspetto giovedì 28 gennaio dalle 21. Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. L'amore è rimasto agli uccelli, non c'è posto per il ricordo. Lettere che mi spedisci dormono in qualche stazione. Questa guerra non vede la fine, l'accampamento è una prigione. L'inverno ha coperto i pensieri e poi l'estate li ha sciolti nel fango. Il tipo di guerra che si combatteva in quel momento era una guerra di un'intensità che non conosceva paragoni negli ultimi 10 anni degli scenari di guerra nel mondo. Quindi non venivano mandati occidentali a Kobane, veniva sconsigliato occidentali di andare. Io credevo in realtà di trovarne, poiché nel Rojava, negli altri cantoni distaccati che erano distaccati al tempo da Kobane, vi erano gli occidentali che combattevano. Quando andai a Kobane poi scoprì che in realtà non vi erano a Kobane, vi era solo un americano che poi incontrai più avanti. Racconto di quell'incontro nel libro, ma eravamo solo noi due. Lettere che mi spedisci dormono in qualche stazione. Ti prego non cercarmi fin tanto. Ha mai avuto paura di morire in quella circostanza? Io ripeto sempre che ho avuto paura tutto il tempo. Ho avuto paura quando ho attraversato il confine, ho avuto paura quando sono stato spedito al fronte la prima volta e ho avuto paura. Un terrore terribile quando vidi arrivare orde di combattenti dell'ISIS che sembravano davvero degli zombie, ondate di questi jihadisti che si lanciavano contro il nostro fronte. Però non si può avere coraggio se non si ha paura. Camminavo vicino alle rive del fiume, nella brezza fresca degli ultimi giorni d'inverno, e nell'aria andava una vecchia canzone. Si è parlato molto in Italia del ruolo delle donne fra i combattenti di Kobane. C'è un ruolo importante della componente femminile di queste resistenti. Vede, la rivoluzione nel Rojava, la rivoluzione di Kobane, innanzitutto, oltre a essere una rivoluzione per la democrazia, per il secolarismo, per l'uguaglianza fra etnie e religioni, è una rivoluzione delle donne, è una rivoluzione femminista prima di tutto, per questo è una rivoluzione così elegante. Le donne portano un apporto enorme a questo processo politico incredibile, e a livello militare portano un apporto fondamentale, non solo a livello di propaganda. Kobane le donne combattevano in prima linea, cadevano come cadevamo noi, ma soprattutto non mi so spiegare il perché, sinceramente, nessuno se lo sa spiegare, ma portano una forza da cui tutti traiamo ispirazione e coraggio. Vi sono stati molti casi in cui durante i combattimenti vi erano dei compagni che scappavano, ma di donne scappate non vi è un singolo caso, non solo a Kobane ma in tutto il Rojava, in tutta la Siria, di donne YPG che siano scappate durante un combattimento. Hanno questo modo di fare, di combattere mantenendo la loro umanità con il sorriso, di portare un'ondata di morale a tutti quelli che sono intorno. E lei nel libro e anche in alcune interviste parla del ruolo ambiguo della Turchia. Quando entrai a Kobane la Turchia tentava di bloccare qualsiasi tipo di aiuto si volesse portare alla città, che fosse di tipo umanitario come medicinali o cibo, che di tipo di supporto di volontari che volevano andarsi a unire alla resistenza. Ma oltre a questo la Turchia confina con parti dello Stato Islamico, e sappiamo benissimo che la Turchia è l'autostrada dell'ISIS. Tutti i foreign fighters che si vanno a unire alle file dei jihadisti passano per la Turchia, e sono a migliaia. Sono migliaia e sono fondamentali per quanto dal punto di vista militare, poiché sostengono a livello militare l'ISIS, utilizza l'ISIS in chiave anticurda, finanziandoli, armandoli. Anche nel libro racconto durante una battaglia disperata in cui l'ISIS ci stava per in qualche maniera sovverchiare, dalla Turchia sono entrati rinforzi su delle Toyota dell'ISIS e sono entrati dal confine turco, li vedevamo entrare dal confine turco poiché stavamo combattendo sul confine turco, nella Siria sul confine turco, ed è una cosa terribile. Noi chiudiamo un occhio perché il ruolo di Erdogan ha preso un po' quello che era il ruolo di Gheddafi al tempo, che ci minaccia con i profughi, che ci minaccia con questo flusso enorme di profughi che in qualche maniera controlla dalla Turchia. A 16 anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre, non mi sono voltata, nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, Cecosba, Paredo, te, Formino, me. Ebano, come mai a un certo punto ha deciso di andarsene, cioè di non continuare questa lotta alla quale ha aderito con tanta passione? In un primo momento sono ritornato, lo racconto nel libro, praticamente tirato per il colletto dai miei compagni italiani che sono venuti a riprendermi in uno dei pochi momenti in cui ritornavo dal fronte. Erano venuti per incontrarmi già due volte nella città liberata, però ero già nel fronte che spingeva verso Tel Abyad e non riuscirono a raggiungermi. Poi tornarono e mi trovarono e mi convinsero a ritornare, mi spiegarono che era importante che io tornassi, raccontassi della mia esperienza e spiegassi i motivi che mi hanno spinto qui a tutti, poiché vi era anche uscita nel periodo in cui ero a Kobane, è stata fatta una legge contro i Foreign Fighters, quindi ero tornato anche per spiegare la mia posizione, non volevo essere scambiato per un jihadista e non volevo che i miei motivi fossero fraintesi. Ebano, cerco sbarbare da te, formine. Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long. Io scrivo questo libro nel modo in cui l'ho scritto proprio perché voglio poter parlare ai miei coetanei, per questo un po' sembra quasi un libro d'avventura per come è scritto, proprio perché volevo che questi contenuti raggiungessero i miei coetanei, volevo che i miei coetanei capissero che la democrazia e la libertà sono cose con cui siamo nati, spesso diamo per scontato, ma qualcuno difese questi valori, qualcuno salì in montagna, qualcuno versò il proprio sangue, ci sono i martiri che non vanno dimenticati e bisogna dare più importanza a questi valori che sembrano scontati. Rimane la domanda, perché un ragazzo di 25-26 anni italiano va a combattere l'ISIS? Io non solo sono andato a combattere l'ISIS, io sono andato per sostenere la resistenza nel Rojava, a Kobane. Combattere l'ISIS in tanti lo fanno, eppure solo nel Rojava si riesce a sconfiggere l'ISIS. Il motivo è che nel Rojava vi è una rivoluzione, vi è un nuovo esperimento politico basato sulla democrazia, basato sulla parità fra culture, fra religioni, basato sul secolarismo, sul femminismo, sul nuovo modello democratico. Nel Rojava vi sono sciiti, sunniti, yazidi, curdi, arabi, assiri, che combattono cristiani, che combattono uno al fianco dell'altro e sono in qualche maniera fratelli. Quando oltre i confini del Rojava si ammazzano fra sunniti e sciiti, c'è una guerra settaria sanguinosissima. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Athos. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo ribelli. Cosa pensa dei raid di Putin della Russia contro l'ISIS? Dichiaratamente la Russia appoggia Assad e sembra ormai che si vada in quella direzione. Innanzitutto bisogna fare chiarezza su una cosa. Cosa servono i bombardamenti quando cadono su Raqqa? Come si può sconfiggere l'ISIS? Per quanto mi riguarda, si sconfigge l'ISIS sostenendo quei popoli che sono sul territorio, che sono sulla regione, che conoscono la cultura del luogo, che conoscono la situazione storica del luogo. Bisogna sostenere quei popoli con ambizioni democratiche a sconfiggere l'ISIS e sostenerli militarmente, sostenerli politicamente. Ma non si può certo mandare un comando di Marines e pretendere di poter sconfiggere l'ISIS in questo modo, si farebbe solo il loro gioco. La narrativa dell'ISIS è quella del fatto che stiano combattendo i crociati, che i crociati vogliono distruggere i siriani, la Siria e il mondo islamico, mentre in realtà non possono raccontare questa cosa quando sono popoli di quella regione che li combattono, curdi, arabi. Quindi bisogna in qualche maniera sostenere quei gruppi che li stanno sconfiggendo. Noi stiamo avanzando contro l'ISIS, siamo a 45 minuti da Raqqa in Siria, che è la capitale dell'ISIS. Chiunque sostenga questo gruppo qui, un gruppo che ha ambizioni democratiche, e in questo momento sono le forze democratiche siriane gli unici che hanno questa cosa, sta combattendo l'ISIS. Chiunque invece fa altro non sta combattendo l'ISIS, li sta alimentando o sta comunque servendo altri scopi. Quindi quando la Russia sostiene le forze democratiche siriane, sostiene i gruppi con ambizioni democratiche a sconfiggere l'ISIS, sta combattendo l'ISIS, altrimenti no. Che cosa farà Karim Franceschi adesso? Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, politica. Sono sempre stato un attivista politico e quindi in questo momento, anche con questo libro, sto cercando di sostenere la rivoluzione nel Rojava. Kobane, abbiamo vinto la più grande vittoria contro l'ISIS, ma Kobane è ridotta in macerie, completamente in macerie. Vi sono case senza tetti, senza muri, con le famiglie che vivono all'interno, in questo momento nevica Kobane. Quindi parte dei miei proventi verranno donati alla ricostruzione della città. Un progetto in particolare della ricostruzione prevede la costruzione di case per le famiglie dei martiri che hanno avuto figli e mariti uccisi durante l'assedio di Kobane. Molti di questi li conoscevo, combattevo con loro, sono amici miei e vorrei sostenere questo progetto. Per chi volesse anche donare può andare su helpkobane.com. Della montagna viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Grazie a Karim Franceschi per il suo racconto e per il suo libro, che è Il Combattente, lo trovate in libreria Burr Editore. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie a voi. Grazie a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of